Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Smart City. Questa sera andiamo a Ragusa per parlare di una sperimentazione che si sta svolgendo proprio in questi giorni e che vede coinvolti, vede partecipare centinaia di cittadini. Parliamo, in estrema sintesi, del primo test su piena scala di un nuovo servizio dedicato alla mobilità che permette in pratica la condivisione dei taxi da parte di più utenti che viaggiano sulle stesse tratte e che quindi possono fare una parte di tragitto insieme. Il servizio si chiama MVMANT ed è stato messo a punto da una piccola impresa italiana, 10 dipendenti nel cuore della Sicilia, Edison Web, di cui abbiamo in linea l'amministratore delegato Riccardo D'Angelo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, senta, intanto iniziamo a descrivere questo servizio, a cui naturalmente si accede tramite la solita app. Come funziona? Sì, io devo andare da un punto A a un punto B, ho bisogno di un posto, di un sedile, non necessariamente di un'auto dedicata, e condivido questa tratta con altre persone che stanno utilizzando la stessa app, la app che coordina una serie di veicoli attraverso degli algoritmi intelligenti in grado di ottimizzare l'occupazione a bordo, quindi ridurre i costi totali di gestione del servizio. Quindi intanto la prima cosa che fa, per esempio, è sulla base di dati storici dire ai tassisti dove è più probabile che ci sia bisogno. No? Sì, e questa è già una prima. I punti di salita, che noi chiamiamo pick up point, sono dei punti ben definiti che rispondono anche a una capacità di intellegere i dati che vengono raccolti, quindi di comprendere dov'è la domanda di mobilità, e quindi vengono individuati con un metodo scientifico e rappresentano il migliore equilibrio tra una sana passeggiata a piedi e la possibilità appunto di avere nodi di scambio. Quindi uno fa qualche centinaio di metri al limite a piedi e si porta su queste tratte sostanzialmente di utilizzo condiviso dei taxi, in parole povere. Ecco, infatti la componente autobus, linea autobus, proprio è questa, è una via di mezzo appunto tra il taxi e l'autobus. Perfetto, perfetto. Ecco, quali sono i vantaggi di questo tipo di modelli? Noi abbiamo parlato spesso per esempio delle ricerche del MIT, dove da cui un po' derivano anche sia il vostro lavoro che altri modelli di trasporto condiviso. Quali sono i vantaggi? I vantaggi dovuti all'applicazione di modelli matematici, di machine learning, sono quelli di avere comunque una flessibilità, quindi la possibilità di avere un mezzo e non attendere molto, la velocità del collegamento, perché comunque sono minivan, mezzi che si muovono con una certa flessibilità, e poi la convenienza della corsa, che non è il costo di un biglietto urbano, ma non è neanche il costo di una... Ecco, spieghiamo bene come funziona questa roba delle tariffe, perché voi avete fatto anche lì un lavoro significativo sostanzialmente. Intanto uno sa subito quanto gli costerà la corsa quando la prenota tramite l'app, ma se uno poi non è fortunato, diciamo, salta e deve andare da una stazione ad un'altra e non c'è nessuno in quel momento che ha bisogno di fare quella tratta, alla fine cosa fa? Paga il biglietto pieno? Come funziona? La tariffa è costante, ovviamente in funzione del percorso e della distanza. Lo si sa addirittura prima di prenderlo, no? Sì, lo si sa prima, è già determinata, poiché è il frutto di un'analisi statistica, è il frutto quindi di una valutazione complessiva sulla sostenibilità del modello, tale che i pieni con i vuoti riescono a compensarsi e a darci la possibilità di determinare qual è il valore medio della tariffa. Quindi il prezzo che paga l'utente per quella corsa non dipende dal fatto di condividere realmente quella tratta, ma è un valore mediato che è appunto una via di mezzo fra il costo di un taxi e il costo di una linea, di un bus sostanzialmente. Esatto. E quali sono molto velocemente gli altri benefici di questo tipo di modello? La riduzione dei chilometri, no? Che fanno questi taxi o questi mezzi di trasporto? Sì, perché noi tendiamo a massimizzare l'occupancy a bordo, ovviamente per avere un modello che è sostenibile. Il fattore di carico, diciamo così. Esatto, questo però significa anche togliere delle auto, poiché in media statisticamente viaggiamo in genere una persona e poco più per auto. Quindi trasportare più persone su un'unica corsa significa ridurre le emissioni inquinanti e i costi anche indiretti per la società. Per la società. Ecco, possiamo parlare di una, se non di una risposta, diciamo di un'alternativa al modello Uber, con il quale mi sembra che questa MVMANT condivida anche alcuni aspetti per certi versi? Sì, l'approccio tipico della sharing economy è applicato a pieno. Qui la differenza non banale è che gli autisti sono NCC, tassisti, quindi sono autisti professionali. Per cui potremmo dire che è una tecnologia disruptive ma costruttiva. Senta, quanti sono i cittadini che hanno provato il servizio di Ragusa, i cittadini ragusani? Allora, abbiamo avuto una risposta incredibile, abbiamo oltre 1500 iscritti e 1000 copie dell'applicazione installata sugli smartphone, abbiamo centinaia di corse al giorno. Ecco, e quello che forse c'era anche da aspettarsi è che questo modello di mobilità ha poi anche delle ricadute di tipo sociale, puramente, squisitamente sociale. Sì, abbiamo scoperto una grande voglia di condividere il viaggio. Una frase significativa che abbiamo raccolto in una delle tante interviste che facciamo anche per avere i giusti feedback dai cittadini è questa di una persona che è scesa dal mezzo, ha detto: sono salito con 5 strani e sono sceso con 5 amici. Con 5 amici, ecco perché... Mentre ci si ignora seduti uno di fianco all'altro su una metropolitana, no? È impossibile farlo quando si è seduti uno di fianco all'altro in un taxi. Secondo me avrete sulla coscienza tantissime corna. È probabile. Va bene, ci possiamo fermare qui. Grazie Riccardo D'Angelo, in bocca al lupo. Grazie a voi. Anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani.